insomma, a parte gli scherzi, siamo qui per parlare del Pigneto, luogo simbolo di questa città, ma non solo simbolo della città, ma anche simbolo della realtà odierna, delle contraddizioni che si vivono nella realtà odierna. Pigneto, appunto, forse il quartiere di Roma in cui più si è sperimentato e praticato quella pratica della gentrificazione di cui tanto si è parlato, quindi di svuotare della vita, diciamo, esistente in un luogo per trasformarla in qualcos'altro e trasformarlo in particolare in un luogo, diciamo, dedito a ricavi di merce legati sia all'aumento dei prezzi dell'affitto sia alla trasformazione in un luogo attrattivo in cui la gente è, diciamo, attirata verso questo posto per consumare, e tutto questo si affianca, diciamo, a tutto un lato repressivo, che vuol dire svuotare di alcuni abitanti scomodi il quartiere, che vuol dire sviluppare un controllo, diciamo, militare della zona per garantire poi la fruizione delle merci. E poi, diciamo, anche un luogo, il Pigneto, in cui c'è tutta una vita appunto negata, una vita di marginale, di persone appunto non gradite che sviluppano lì la propria vita e che sono, diciamo, state soggette a una forte repressione in questi anni, con espulsioni, con arresti, con controlli continui e con una contrapposizione tra una parte della popolazione, diciamo, più integrata e una parte meno integrata. Di questo abbiamo parlato anche la settimana scorsa, di questi conflitti che si generano proprio tra diversi strati sociali, sempre di esclusi però di poveri all'interno della città, con tutto vantaggio poi di chi invece effettivamente fa gli affari sui luoghi, di chi effettivamente fa i soldi. Volevamo così introdurre un attimo l'argomento, se tu hai qualcosa da aggiungere, sennò poi ci sarà un collegamento con una compagna che ci racconterà di preciso questa iniziativa. Appunto, attraverso il collegamento con questa compagna cercheremo un po' di presentare un'iniziativa che, diciamo, è sia in linea con il ragionamento che abbiamo iniziato nella scorsa puntata di Silenzio Assordante rispetto alle contraddizioni che si vivono nei territori, sia rispetto all'intervento che, insomma, ha aperto la puntata d'oggi di Silenzio Assordante, di quanto la macchina delle espulsioni e la militarizzazione delle frontiere sia poi collegata con quello che accade nei contesti locali. Parliamo di dinamiche che si aggirano su parole d'ordine quali appunto il decoro e la legalità e la sicurezza, che vediamo come siano anche predominanti in tempi di campagna elettorale, quindi siano proprio il linguaggio dello Stato che è stato interiorizzato da un pezzo di popolazione. Parliamo quindi di un contesto dove ai giorni, cioè in queste ore, le forze dell'ordine si aggirano in massa e su richiesta di una fetta della popolazione, degli abitanti di quel quartiere, di un quartiere che sta subendo delle trasformazioni davvero accelerate, e quello che si può denotare in queste, diciamo, in questi ultimi giorni è davvero un quartiere silenzioso, con un'illuminazione a giorno anche di notte, e veri e propri diciamo plotoni di forze dell'ordine che si aggirano in un quartiere che ormai è essenzialmente loro. E io penso che sì, forse una cosa da dire, che proprio sembra che il nemico di questo sistema sia proprio la vita, nel senso che la vita non deve potersi esprimere liberamente, quindi le persone, le masse di persone sono accette in un luogo solo nella loro funzione di consumatori, sia esso appunto un centro commerciale piuttosto che una piazza dedicata alla movida, ma che la vita si così esplichi liberamente in un luogo, in un quartiere, che le persone scendano per strada, che si incontrino, che ci sia del movimento, che ci sia una socialità di strada, cosa che è sempre appartenuta al genere umano, insomma non è certamente qualcosa di strano, invece sembra qualcosa di ostile, di pericoloso, che deve essere in qualche maniera scoraggiato. Le persone devono essere comunque rinchiuse in casa o comunque scendere per strada solo per sviluppare determinate funzioni. Noi invece, come abbiamo già detto, pensiamo proprio che sia da salvaguardare proprio una libera possibilità di stare in strada, di prendersi le strade, di avere un discorso comune nella strada, che ciò sia non solo bello, diciamo, umanamente, ma anche utile rispetto alla possibilità delle persone di difendere la propria vita e di migliorarle, perché stando chiusi in casa sicuramente non si riuscirà a farlo. Invece vediamo appunto questo, soprattutto legato a questo fenomeno del degrado, che spesso, diciamo, si traduce nel voler creare un'urbanistica completamente asettica, completamente, diciamo, controllata, in cui nessuno abbia di possibilità di espressione, con fenomeni come abbiamo visto, come questo di Retake, che in qualche maniera vorrebbe, insomma, anestetizzare tutto il contesto urbano, renderlo appunto completamente asservito all'esigenza del controllo e all'esigenza appunto della merce, quindi di creare luoghi belli per poi poter essere in qualche maniera venduti. Ecco, tutto questo andrebbe affrontato adeguatamente. Sicuramente questa discussione sul Pigneto è un buon momento, perché è proprio forse il luogo simbolo in cui a Roma si verificano tutte queste situazioni. Tra l'altro parliamo di un contesto che, diciamo, è arrivato all'apice di un lungo processo di trasformazione, e dove tra l'altro diverse componenti di compagni e compagne hanno provato a muoversi, a prendere parola, anche con linguaggi che sono stati immediatamente recuperati da parte di comitati di cittadini, supportati anche da commercianti, come ad esempio quello che fu l'esperimento di compagne che attraversarono un pezzo del quartiere parlando di come la sicurezza in realtà lo fa il poter attraversare le strade insieme, farlo con momenti di lotta, di rivendicazione dell'autodeterminazione, di come per esempio la proposta di una mappa di luoghi sicuri, intesi come luoghi liberati, dove la socialità, insomma, non era marcata dalla violenza del consumo, sia stata immediatamente recuperata con mappe per indicare persone illegali, e l'invito tra l'altro alla delazione attraverso queste mappe. Insomma, sono parecchi i dispositivi che si sono messi in campo, così come un antirazzismo che ultimamente viene utilizzato con la messa al lavoro in termini di pulizia, manutenzione di un pezzo di quartiere da parte di rifugiati, di persone costrette nel circuito degli SPRAR. Ma insomma, fra pochissimo ne parleremo con una compagna, se rimanete, insomma, all'ascolto dopo una pausa musicale. Non tra poco. 16:36 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Il 2 giugno, niente da festeggiare, il Pigneto è una frontiera. Abbiamo in collegamento una compagna per presentare questa iniziativa, appunto, prevista per il 2 giugno in quel dell'isola pedonale del Pigneto. Ciao a tutte e tutti. Allora, sì, il 2 giugno abbiamo pensato di organizzare questa discussione pubblica al Pigneto, che è un quartiere in cui, visto che il 2 giugno si festeggia la Repubblica con le parata militare, al Pigneto la vediamo praticamente tutti i giorni, quindi appunto parleremo della militarizzazione del quartiere, che è in aggiunta praticamente alla lotta contro il degrado che portano avanti i cittadini e i commercianti del quartiere. Si produce un po' questo clima di persecuzione, diciamo, delle persone che comunque sono indicate come colpevoli di portare questi problemi di degrado e di insicurezza nel quartiere. E la nostra critica, a parte il fatto che comunque rifiutiamo la militarizzazione dei territori, è comunque soprattutto perché sappiamo che con questi controlli frequenti delle forze dell'ordine, che sono costanti e giornalieri, tutti questi controlli portano comunque alla ricerca di persone che frequentano il quartiere, persone migranti che spesso sono senza documenti, quindi senza la permessa di soggiorno, quindi appunto tutti quegli irregolari che vengono poi chiusi nei CIE e in seguito espulsi e deportati. Infatti, scusa se mi intrometto, ma giusto per parlare un po' della concretezza, parliamo di circa 380 decreti d'espulsione che hanno riguardato il 2014 e il 2015 e di 100 decreti d'espulsione in questa prima parte del 2016, insomma, quando parliamo di numeri parliamo di persone. Esatto. Persone che appunto subiscono tutta questa violenza quotidianamente sotto gli occhi di chiunque frequenti e abiti il Pigneto, senza che però questo provochi lo stesso modo di indignazione e di solidarietà comunque del quartiere impegnato a proteggere i muri sporchi e quindi a ripulire il quartiere in senso, diciamo, materiale, ecco. Quindi un'altra tematica, a parte la militarizzazione, a proposito di muri sporchi, abbiamo pensato di sottolineare anche tutta quell'operazione che si sta facendo nei confronti dei migranti, con appunto sempre legata alla questione del decoro. Sia il Pigneto che in generale il quinto municipio hanno degli accordi con le strutture di accoglienza per far lavorare comunque rifugiati e richiedenti asilo che sono diciamo ospiti in queste strutture. Alcuni sono obbligati comunque a lavorare gratuitamente perché nei primi mesi della richiesta d'asilo non hanno i documenti e quindi non possono avere un contratto e lavorare a pagamento, e in più comunque il fatto di lavorare, di svolgere opere di volontariato fa punteggio davanti alla commissione, perché comunque dimostra la volontà di queste persone di integrarsi e quindi di svolgere dei lavori per essere, diciamo, in certo modo riconoscenti al paese che li sta accogliendo. E infatti qualche domenica fa, se non mi sbaglio, c'è stata questa iniziativa al Pigneto in cui i famosi retake, in collaborazione con la Caritas, mi pare, hanno portato comunque dei rifugiati a ripulire i muri del Pigneto. Questa cosa la rifiutiamo sia perché comunque si tratta di sfruttamento, perché le persone lavorano gratuitamente, sia perché contribuisce comunque a creare quella distinzione fra i migranti buoni e quelli cattivi, in cui i migranti buoni sarebbero queste persone che comunque sono obbligate a lavorare con il ricatto del permesso di soggiorno, che comunque dimostrano di volersi integrare nella società, mentre con tutti quelli irregolari che comunque non rientrano nel sistema dell'accoglienza sono giudicati non desiderabili, e sono poi tutti quelli che verranno magari espulsi o rinchiusi nei CIE dopo le retate nei quartieri. Sull'onda di questo ragionamento parleremo anche dell'accoglienza, che si lega tra l'altro a questa categorizzazione dei migranti, la suddivisione comunque in buoni e cattivi, perché l'accoglienza stessa, le strutture di accoglienza secondaria che creano le categorie di richiedente asilo, di rifugiato e quindi anche di irregolare, perché se non rientri nel circuito dell'accoglienza, appunto, o se sei espulso dal circuito dell'accoglienza, ritorni a ingrassare, diciamo, le file di tutti gli irregolari e dei senza documenti. Non parliamo di accoglienza neanche cioè noi vorremmo creare comunque delle reti di solidarietà, perché comunque l'accoglienza, anche in base ai dati governativi, non crea per niente inclusione, o a fronte di questa inclusione c'è solo una minima parte, che in realtà è un terzo di tutti i migranti, viene integrata, anche se questi dati sono abbastanza discutibili perché non sono completi, mentre tutto il resto delle persone viene espulsa dal circuito, perché comunque ci sono tipo il 60% di dinieghi alle domande d'asilo, per cui queste persone dopo aver comunque passato la loro vita sotto controllo all'interno di questi centri di accoglienza, aver lavorato gratis, comunque non aver vissuto in piena autonomia, vengono poi fatte uscire da questi centri cioè ritrovandosi praticamente nella condizione in cui erano entrati, quindi irregolari, quindi obiettivi comunque soggetti alle retate, per cui ovviamente non avendo documenti ritorneranno comunque senza permessi e senza, diciamo, il diritto di rimanere sul suolo italiano. Diciamo poi, che è un'iniziativa complessa. Scusa, non ti sento. Adesso mi senti? Sì. Dicevo che è un'iniziativa piuttosto complessa, che prova anche a fotografare la situazione nel quartiere e le contraddizioni, e penso che sia proprio questo l'invito a partecipare proprio attivamente alla discussione. Sì, soprattutto perché comunque appunto siamo in un quartiere abbastanza ostile proprio per tutto quello che succede ogni giorno in quelle strade, ma appunto speriamo che sia un'iniziativa abbastanza partecipata, perché sentiamo comunque la necessità di parlare di questi argomenti di cui non si parla tantissimo, soprattutto perché comunque la maggior parte dei cittadini tendono anche a vedere comunque i migranti o come vittime o come dire criminali, e quindi però non si ragiona mai sulle motivazioni che ci sono dietro queste categorie, diciamo. E poi sì, perché poi anche per quanto riguarda l'accoglienza, cioè vorremmo proporre comunque un punto di vista nuovo, e anche parlare di questi dati, di tutto quello che c'è dietro l'accoglienza, che alla fine cioè è soltanto gestione e controllo, e poi business degli enti, delle aziende, delle associazioni che ruotano attorno a questo sistema. Come si svolgerà l'iniziativa? Che appuntamento c'è? Se puoi dirci un po'. Allora, l'appuntamento è all'isola pedonale alle 6, quindi faremo una discussione pubblica, penso che porteremo un po' di cibo per fare aperitivo, merenda, e poi basta, penso, musica, se è il caso. Va benissimo, quindi l'appuntamento è previsto per il 2 giugno. Il 2 giugno alle 18. Va benissimo. Penso che sarà anche il caso, insomma, di avere un resoconto da questa iniziativa di discussione, che insomma entra nel merito di alcune contraddizioni, ma anche di un linguaggio imperante che vuole imporre un determinato stile di vita, di determinati comportamenti, e che ricasca anche su fuori dai confini del Pigneto in sé, tant'è che una dei dispositivi utilizzati, che abbiamo visto estendere anche a luoghi dove non c'è una movida ma semplicemente una vita in strada, dove le persone si incontrano e vivono insomma la propria socialità, è quella dell'ordinanza anti-alcol, che abbiamo visto insomma estendersi oltre i confini stessi del Pigneto, proprio per imporre sia diciamo la chiusura di alcune attività, come sta avvenendo al Pigneto, che ultimamente diversi controlli hanno portato alla chiusura di 5-6 esercizi in pochissimi giorni, ma anche a insomma costringere tutti dentro le case, non a una vita in comune, insomma. Sì, esatto, anche uno dei motivi per cui abbiamo scelto quelle strade, proprio perché abbiamo anche il bisogno di viverle, non consumarle come si è soliti fare in quelle strade lì del Pigneto. Va bene, noi ti ringraziamo, ti invitiamo insomma a contribuire anche la prossima settimana con un resoconto da questa iniziativa, capendo insomma anche qual è la prospettiva. Grazie. Va bene, vi aspettiamo. Ciao a tutti.